per Milano Caturna arriverà con un ritardo di 666 minuti. Fermo con gli occhi chiusi in mezzo alla campagna, bloccato su questo pezzo di ferraglia, vorrei potermi liberare da questa trappola infernale. I've got the vision of me out of here, trying to fly in the sky. I need to be out of this metal trap. Maybe this will be my coffin. Attenzione, il treno per Milano Caturna è stato assalito dagli indiani. Ma so che prima o poi finirà la sua corsa e mi libererà dalla sua morsa. Vorrei soltanto volare via, librarmi sopra la ferrovia. I've got the vision of me out of here, trying to fly in the sky. I need to be out of this metal trap. Maybe this will be my coffin. Qui non si va mai avanti, siamo come ostaggi paganti. Qui non si va mai avanti, siamo come ostaggi paganti. Si può soltanto sperare, se vivi da pendolare. Si può soltanto sperare, se vivi da pendolare. Attenzione, il treno per Milano Caturna è saltato in aria.